la gloria del Padre. Ma il fine della creazione è veramente la conformazione al Figlio. In concreto, il fine è che sia resa gloria al Padre nel Figlio, riflettendo fedelmente la volontà divina. Questo è iscritto nella legge stessa della natura, che è legge di armonia. Opporre l'idea che Dio ha creato il mondo per sé al fatto che l'abbia creato per noi significa pensare secondo categorie finite e dialettiche, come se la felicità fosse limitata e quindi se uno l'ha, l'altro non l'ha. Pensare al finito, pensare a prescindere dalla relazione con un padre infinitamente buono e onnipotente, è proprio conseguenza del peccato originale. Da qui deriva l'idea che si debba rinunciare alla felicità per servire Dio o che la chiamata divina sia incompatibile con la felicità umana. Per gli antichi la questione nemmeno si poneva perché era impensabile che il mondo fosse destinato al loro bene. Gli dei cercavano innanzitutto il proprio bene e spesso ciò avveniva a discapito dell'uomo. Non esisteva ontologia del dono perché non si aveva la rivelazione. Ma per un cristiano pensare che dare gloria a Dio implichi toglierla a sé è un po' come l'ingenuità di un adulto che chieda a un bimbo se vuole più bene al papà o alla mamma. La Chiesa insegna che il mondo è stato creato per la gloria di Dio, ma questo non significa che siamo chiamati all'olocausto per mettere in risalto la sola gloria divina. La frase latina «solo a Dio la gloria», «soli Deo gloria», era il motto di alcune forme estreme che inizialmente hanno caratterizzato la riforma protestante. L'espressione può essere intesa come necessità di negare l'uomo e la propria identità, ragione e libertà, per affermare Dio, per glorificarlo. Ciò si distingue nettamente dal cattolico «a Dio tutta la gloria», «Deo omnis gloria», che include ogni cosa nel ritorno al Padre mediante la dimensione filiale, Padre e Figlio, sono uniti nella gloria e nel Figlio incarnato sono uniti anche creatore e creatura. Dare tutta la gloria a Dio non vuol dire perdere la propria, perché l'uomo è figlio e la gloria del Padre è proprio che il Figlio viva. La relazione che unisce l'uomo e Dio spinge a dare tutta la gloria a colui che tutto ci ha donato, compreso suo Figlio, ringraziandolo. Il vertice di ciò si ha per questo nell'Eucaristia. La felicità sulla terra non può essere dunque intesa come furto della gloria celeste. Ciò sarebbe parallelo alla concezione luterana della fede, considerata veramente pura solo quando non è accompagnata dalla comprensione. Si avrebbe così un cristianesimo triste, di pura rinuncia e non filiale. Da qui ha origine anche la separazione moderna tra fede e ragione. La gloria, per i greci, era la doxa, cioè la fama, mentre per gli ebrei essa è la qualità oggettiva e intoccabile presente nelle cose, la kabod Yahweh, dove la radice del sostantivo indica il peso e la solidità. La traduzione dei 70 collega il termine greco e quello ebraico. La gloria di Dio è quella della sua intimità che si effonde nella creazione. Per questo i cieli narrano la sua gloria. Salmo 18:2. Si pensi anche alla gloria di Dio che copre il monte Sinai dove è salito Mosè e che è vista dal popolo come fuoco divorante, Esodo 24. Nei libri più tardivi dell'Antico Testamento la gloria passa ad indicare la santità divina. Nel Nuovo Testamento riappaiono tutte le tematiche dell'Antico, ma adesso esse sono riferite a Cristo, perché la gloria di Dio circonda la nascita di Gesù a Betlemme, Luca 9:14. Quando Cristo chiede al Padre di glorificarlo con quella gloria che già aveva presso di lui prima che il mondo fosse, Giovanni 17:5, sta rivelando se stesso come gloria del Padre, gloria come di unigenito del Padre che vedemmo nell'incarnazione, Giovanni 1:14. Culmine di questa rivelazione è la croce, la passione mediante la quale il Signore entra nella sua gloria, Luca 24:26. Nella parusia finale si avrà la manifestazione piena di questa gloria. A questo punto si può comprendere cosa vuol dire che il creato è stato fatto per la gloria di Dio. L'uomo e il mondo non sono altro che la manifestazione del potere, della santità e della gloria divini. Rifiutare questa realtà vuol dire per l'uomo rifiutare se stesso, rifiutare quell'immagine che lo costituisce come uomo. Mentre i cieli e la terra non possono far altro che rendere gloria a Dio, l'uomo può non farlo perché è libero. Ancor di più, la piena manifestazione della gloria di Dio anche per il creato passa attraverso l'uomo che è portavoce delle creature. Attraverso di noi la luna e le stelle, i fiumi, la pioggia e la rugiada rendono gloria al Creatore. Al dono libero del Creatore corrisponde la libera restituzione del dono da parte della creatura. L'uomo, che è figlio, affida ogni cosa e si affida al Creatore riconosciuto come Padre, cioè sorgente amorevole di ogni bene. Giovanni Paolo II ha espresso ciò con parole nelle quali la profondità teologica acquista toni poetici. Il libro di Baruch 3:34 ha un'espressione molto singolare e suggestiva. Le stelle brillano dalle loro vedette e gioiscono. Egli le chiama e rispondono «Eccoci!» e brillano di gioia per colui che le ha create. Questo inno di gloria, iscritto nel creato, attende un essere capace di dargli un'adeguata espressione concettuale e verbale, un essere che lodi il santo nome di Dio e narri la grandezza delle sue opere. Quest'essere, nel mondo visibile, è l'uomo. A lui è rivolto l'appello che sale dall'universo. È l'uomo il portavoce delle creature e il loro interprete davanti a Dio. Nel mistero della gloria, tutte le creature acquistano il loro significato trascendentale, oltrepassano se stesse per aprirsi a colui nel quale hanno il loro inizio e la loro meta. 12 marzo 1986. Dare gloria a Dio vuol dire allora per l'uomo riconoscersi come creatura conforme alla vocazione e alla natura che ha ricevuto dal Creatore. Solo in un contesto idolatrico la gloria dell'uomo può entrare in competizione con quella degli dèi, finiti e intrappolati nella logica dell'avere e della limitatezza. Questa è la grande liberazione del cristianesimo. Dire che l'uomo è creatura significa che ha ricevuto tutto da Dio, tutto il bene che c'è in noi è di Dio. Dare gloria a Lui vuol dire allora riconoscere e realizzare il bene in noi. Basti pensare alla gioia espressa dal Magnificat di Maria. La felicità umana consiste dunque nella ricerca della gloria di Dio, della sua volontà. Difatti, paradossalmente, non si trova mai la felicità quando essa è cercata in se stessa. Essa è come l'acqua che sfugge dalle mani quanto più queste si stringono per afferrarla. Per bere bisogna invece accogliere. Così l'uomo è fatto per essere felice come figlio, cioè cercando la gloria del Padre. Quella gloria che è l'uomo stesso, concepito nel cuore del Padre. Un altro testo di Giovanni Paolo II esprime quanto detto. La gloria di Dio è prima di tutto in Lui stesso. È la gloria interiore che, per così dire, riempie la stessa profondità illimitata e l'infinita perfezione dell'unica divinità nella Trinità delle persone. Questa perfezione infinita, in quanto pienezza assoluta di essere di santità, e pure pienezza di verità e di amore nel contemplarsi e nel donarsi reciproco e quindi nella comunione del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Mediante l'opera della creazione, la gloria interiore di Dio che sgorga dal mistero stesso della divinità viene in un certo senso trasferita al di fuori, nelle creature del mondo visibile e di quello invisibile, in proporzione al loro grado di perfezione. Con la creazione del mondo, visibile e invisibile, incomincia come una nuova dimensione della gloria di Dio, detta esteriore, per distinguerla da quella precedente. 12 marzo 1986. La gloria di Dio e il bene delle creature sono, dunque, la stessa cosa in re. La felicità, l'essere creature, e per l'uomo l'essere figlio, sono un dono. Alla luce dell'ontologia del dono, contenuta nella teologia della creazione e da essa implicata, si può superare ogni dialettico out-out con la forza dell'et-et cattolico, che trova la sua massima realizzazione nel sì di Maria, vergine e madre. Lei creatura, madre del suo creatore.